Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Settimana scorsa avevamo già cominciato con questa formula eclettica suddivisa per volumi, uno per giorno della settimana fra le 19 e le 20. Però, visto che lunedì era festivo, era stata una forma un po' ridotta. Questa settimana invece completa, da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 20, in compagnia di Giulio Caperdoni, che vi augura il benvenuto sulle frequenze di Rock FM, sia che state ascoltando via etere, via satellite, via streaming o in differita via podcasting. Giulio è radiorockfm.com, l'indirizzo di mail di riferimento, e invece myspace.com/eclettica è il sito da cui recuperare tutte le informazioni di dettaglio. Chiamatemi Jonah. I miei genitori mi chiamavano più o meno così. Mi chiamavano John. Jonah o John. Se anche mi fossi chiamato Sam, sarei rimasto un Jonah. E non perché fossi un menagramo, ma perché c'era sempre qualcosa o qualcuno che mi scaraventava puntualmente in determinati posti, in determinati momenti. Non senza i debiti mezzi e motivi, convenzionali o strambi che fossero, e nel pieno rispetto del piano. Allo scoccare del secondo stabilito, questo Jonah era lì, nel posto stabilito. State a sentire. Quando ero più giovane, due mogli or sono, più 250.000 sigarette e 50.000 cicchetti, quando ero molto, ma molto più giovane, incominciai a raccogliere il materiale per un libro che doveva intitolarsi Il giorno in cui il mondo finì. Questo era l'incipit di Ghiaccio 9 di Kurt Vonnegut. Love. Devi smettere di rompermi le scatole tutte le mattine all'alba. Ti avevo avvisato. Gallo avvisato, mezzo accoppato. Oh, Eh sì, e chi l'avrebbe mai detto che sarebbero state così evidenti ad un certo punto nella carriera delle Coco Rosie le loro influenze hip hop fino ad ora così latenti, e che per andare a scoprirle dovessero addirittura spostarsi in Islanda, a Reykjavik. The Adventures of Ghost Horse Stillborn, questo è il titolo del terzo album della carriera delle sorelle Casali. E invece, in apertura di questa parte di Eclettica, uno dei nomi su cui sto puntando sicuramente in questo periodo, Soul Seppi. Vi ricordo che tutto il dettaglio, visto che io sono un po' reticente in onda, tutto il dettaglio invece lo trovate nelle playlist con il perfetto elenco dei film, dei libri e dei brani che costituiscono Eclettica. Thank you. La cosa era questa. 1 milione di anni fa, nel 1986 d.C., Guayaquil era il principale porto marittimo del piccolo stato democratico sudamericano denominato Ecuador, la cui capitale, Quito, si situava ad alta quota tra le Ande. Guayaquil sorgeva 2 gradi a sud dell'equatore, immaginaria cintura del pianeta donde il paese traeva il proprio nome. Faceva sempre molto caldo a Guayaquil, caldo e umido, perché la città era ubicata nella zona delle calme equatoriali e, per l'esattezza, in una pianura paludosa percorsa dalle acque commiste di numerosi fiumi che defluivano dalle montagne. Questo era l'incipit di Galapagos, di Kurt Vonnegut. Nei cieli, spero che tu stia bene, perché io qui faccio una vita d'inferno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, possibilmente fresco. Faccio presente che non ho debiti, non ho debitori, Dove vivo non ci sono tentazioni, così è. Così è. J'ai bien le droit aussi.